Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. A proposito di Europa e di lettere, proprio in questi istanti le agenzie battono il racconto di un Barroso davvero furioso, scusate il gioco di parole. Il presidente uscente della Commissione Europea infatti è molto arrabbiato della pubblicazione della lettera di Katainen a Padoan e specifica che è stata una decisione unilaterale del governo italiano. La Commissione dice non era favorevole perché siamo in una fase di negoziate e consultazioni con diversi governi e sono consultazioni tecniche che era meglio avere in un ambiente confidenziale. Barroso, che come ripeto di fatto è agli ultimissimi giorni della sua attività, dice la maggior parte delle notizie sulla stampa italiana su quanto io o la Commissione abbiamo sostenuto sono false, surreali, non hanno nulla a che vedere con la realtà. In estrema sintesi, per chi non segue magari i dibattiti europei, si affermava che Barroso fosse per la linea 2 nei confronti dell'Italia, mentre Juncker, presidente della Commissione entrante da tra tre giorni si insedia, avesse un approccio differente. Insomma, staremo a vedere questa polemica. Intanto la lettera arrivata è stata divulgata anche solo in parte. Noi invece sentiamo il commissario europeo, l'italiano commissario europeo all'industria Nelly Feroci, appunto su questa famosa comunicazione. Sono lettere che sono formulate come richieste di chiarimenti, non sono lettere che ci fanno richieste particolari in termini di aggiustamenti, di modifiche. È parte questa lettera di una interlocuzione in corso tra Commissione e governi degli Stati membri, quindi non c'è niente di drammatico. È uno step di un processo che è in corso e che proseguirà fino a mercoledì della settimana prossima. Se capisco bene, il problema principale è quello del deficit strutturale per l'Italia. Il problema su cui si sta concentrando l'attenzione della Commissione è la misura della riduzione del cosiddetto deficit strutturale. Come noto, l'Italia non ha un problema di sforamento del deficit non strutturale, diciamo, quello famoso del 3%, noi siamo tranquillamente sotto quel target. Abbiamo però un problema di riduzione del deficit strutturale che è particolarmente importante nel caso dell'Italia, perché deve essere in qualche modo coerente con l'impegno alla riduzione del debito. È per questo che ci viene chiesto un sacrificio ulteriore rispetto a quello che può essere chiesto ad altri stati. Questo è il risultato del fatto che abbiamo un debito molto alto. Energia, clima, dunque adattamento climatico e strategie per i prossimi 15 anni, questo è l'altro grande tema presente oggi e domani all'incontro, appunto al Consiglio europeo. Tra i 28 Stati membri è stato raggiunto un fragile equilibrio sui tre target principali del pacchetto, così le fonti comunitarie questa mattina, secondo cui se si dovessero cambiare le cifre attualmente sul tavolo, cioè il 40% di riduzione obbligatoria della CO2, il 27% di quota di rinnovabili vincolanti a livello UE, l'aumento del 30% di efficienza energetica, solo indicativo, potrebbe addirittura crollare l'impianto dell'accordo. Sentiamo il servizio. Oggi e domani il Consiglio europeo è chiamato ad esprimersi sull'indirizzo politico da seguire per i prossimi 15 anni in campo energetico e ambientale, decisioni che influenzeranno senza dubbio anche la conferenza sul clima di Parigi prevista a dicembre. Gli obiettivi 20-20-20 a cui ci eravamo abituati sono stati sostituiti da altri numeri: 40% di riduzione delle emissioni di CO2 rispetto ai dati del 90, 27% di energia proveniente da fonti rinnovabili e 30% in più di efficienza energetica. Perché non c'è più tempo e dobbiamo fare qualcosa ora, dice la svedese Gitte Guteland, membro del Parlamento europeo. Nei giorni scorsi però un gruppo di paesi dell'Europa orientale ha cercato di contrastare questo accordo, sostenendo che la riduzione delle emissioni di CO2 porterebbe aumenti di prezzo dell'energia e rallentamenti generali dell'economia. A guidare la fila c'è la Polonia, uno stato in cui il 90% dell'elettricità arriva dal carbone. Che la Polonia apra il dibattito mi sembra naturale, dice il danese Martin Lidegaard. La questione vera è che non può e non deve cambiare il futuro del sistema energetico europeo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto, nuovi aggiornamenti in Europa 24 notte, questa sera alle 21.30. Noi ci risentiamo domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.